Garibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio a tutti, bentornati per una nuova puntata, anzi una nuova stagione di Zibaldone. Cominciamo con un po' di gran bella musica, capirete poi il perché. E sulle note di questa Higher Ground di Stevie Wonder, era il 1973, cominciamo appunto una nuova stagione di Zibaldone. Per questo do anche subito il bentornato e il buon pomeriggio al nostro ergonomico Banzo. Banzo, come va? Bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, è bello essere di nuovo qui, non è un benvenuto qualsiasi perché appunto cominciamo una nuova stagione alla grandissima. Ci piace vincere facile, quindi cominciamo con un brano bellissimo dello Stevie Wonder del periodo d'oro, da Inner Visions. E comunque c'è un collegamento, come dicevi anche tu, col tema della puntata che scopriremo subito. Però prima di cominciare a bomba, volevo approfittare di questo inizio per salutare il nostro Fausto De Salvia, fedele, instancabile collaboratore dalla Romagna, anche per ricordare che purtroppo circa una settimana fa la Romagna è stata colpita da un'altra alluvione, in questo caso il nostro Fausto per fortuna se l'è cavata meglio che nell'occasione precedente, però ci sono stati paesi come Traversara, frazione della mia Bagnacavallo, che sono risultati quasi completamente distrutti, quindi se potete seguite questo argomento, cercate di donare, io ovviamente vi sprono a farlo. Steven, grazie per questo spazio, continuiamo con il tema della puntata. No, ma hai fatto benissimo, anche perché insomma alcuni nostri ascoltatori lo ricorderanno, quando nella primavera del 23 a maggio, insomma, c'era stata questa prima grande, la penultima ormai, alluvione in Romagna, avevamo dedicato una puntata speciale proprio di Zibaldone. Al riguardo, insomma, purtroppo temo che toccherà tornare a parlarci, speriamo che comunque insomma le cose migliorino presto, e un grande saluto, un abbraccio a Fausto. Allora, puntata di quest'oggi, cominciamo la nuova stagione allontanandoci molto dall'Italia ma ascoltando delle voci italiane, perché Voci dall'America è il titolo dello Zibaldone di questo 27 settembre. Andiamo negli States, e anche da qui la scelta di Stevie Wonder, per sentire un po' di voci di persone che vivono lì da tempo e che sono anche in questo caso amici, collaboratori di Zibaldone da parecchi anni, per capire un po' qual è insomma il clima che si respira in vista di un voto, quello del prossimo 5 novembre, che è Banzo, ovviamente cruciale per i destini degli Stati Uniti e soprattutto nel caso in cui vinca Trump, ma anche a livello mondiale. Beh, allora, va detto che effettivamente ogni elezione americana è cruciale per i destini del mondo, per ragioni geopolitiche che sono così ovvie che non vale la pena ricordare, però diciamo che ogni elezione americana assume connotati particolarmente cruciali, anche perché nel frattempo ci sono problemi in divenire come la crisi climatica, e abbiamo avuto 4 anni di amministrazione Trump che insomma ci possono dare un po' l'idea di quello che ci aspetta su tematiche come quella ecologica, che secondo me, mia opinione personale, in questo contesto storico è molto più risolutiva di altre questioni politiche che pure sono ovviamente fondamentali. E sì, appunto, vediamo cosa succederà. Innanzitutto c'è stato questo cambio in corsa che non sapevamo se aspettarci, e forse era auspicato da molti, quindi Trump affronterà Kamala Harris e non Joe Biden, che sembrava più in grado di assolvere questo compito. Comunque ne parliamo anche con i nostri ospiti, voleremo tra pochissimo a New York per ritrovare Ricky Russo, che vive lì da oltre una decina d'anni, e poi invece ci sposteremo in New Mexico a Albuquerque per trovare Alessio Piras, che anni fa viveva qui a Barcellona. Quindi anche due voci diverse, due luoghi diversi, e per andare a New York e per parlare con Ricky Russo andiamo subito ad ascoltarci un brano, una news freschissima, ce lo spiegherà Ricky Russo il perché. Jesse Malin e Bruce Springsteen, She Don't Love Me Now, andiamocela a sentire e poi saremo nella grande mela. My baby at a bar somewhere in Ohio. I guess I went a bit too far. Now I'm in denial. She don't love me now. She don't love me now. Each other's dreams, we were kind of killers. Oh, she don't love me now. She don't love me now. Sick of the shows, doing my best, till I did what I could. Still got a few friends in the neighborhood. But oh, she don't love me now. She don't love me now. I could. Questo brano di Jesse Malin e Bruce Springsteen, She Don't Love Me Now, andiamo a New York dove ritroviamo un carissimo amico che è Ricky Russo. Ricky, bentornato a Zibaldone dopo tanto tempo, come va? Mamma mia, pelle d'oca, sono emozionato, un ritorno, non ci sentivamo da troppo tempo. Un grande saluto, abbraccio a te Steven e a tutti i tuoi ascoltatori, è sempre bello stare un po' a Barcellona con i tuoi collegamenti. Ben ritrovati, sono all'aperto in una bella giornata di sole davanti al comune, City Hall a New York. In pieno centro. Ricky, è un piacere averti con noi e soprattutto in questo inizio di stagione di Zibaldone con una puntata dedicata alla situazione che si sta vivendo negli States in vista del voto del 5 novembre, un voto cruciale, insomma non c'è bisogno neanche di dirlo. E prima di parlarne un po' con te, che ci racconti un po' come si vive, no? Nel grande pomo, come tu lo chiami, nella grande mela New York, esatto. Insomma questa campagna elettorale molto tesa, ecco, prima però facciamo anche una riflessione magari o almeno una menzione al brano che ci siamo appena sentiti, perché è una news fresca. Sì, assolutamente, ci tenevo. Jesse Malin è uno dei miei eroi newyorkesi, una delle persone migliori che ho incontrato e conosciuto durante la mia vita a New York. È un po' il fulcro ed è stato il fulcro durante gli ultimi 20-25 anni della scena rock and roll di New York. Ha avuto una sfiga tremenda, lo avevamo già raccontato, un ictus spinale l'anno scorso. È stato veramente dura, difficile, e quindi tanti musicisti stanno aiutando la sua riabilitazione, che comunque sta andando bene. È uscito questo disco Silver Patron Saints, dove ci sono dai Green Day ai Dinosaur Junior a Frank Turner, Tom Morello, Lucinda Williams, Elvis Costello, Rancid, Gogol Bordello, che rifanno i pezzi di Jesse. Farà anche un concerto con tanti ospiti, sta molto meglio, però la strada è ancora lunga, bisogna supportarlo. L'1 e 2 dicembre a New York al Beacon Theater, anche là con tanti ospiti, quindi viva Jesse Malin, speriamo di vederlo presto al meglio e che recuperi pienamente la capacità di camminare, perché di questo stiamo parlando. Ce lo auguriamo tutti, e artisti appunto come a partire da Bruce Springsteen, che sempre hanno avuto anche, no, un engagement politico e sociale notevoli, e lo stanno avendo molti di loro anche in questi mesi. E proprio di questo anche, Ricky, ti volevo domandare un po', insomma si leggono spesso analisi politiche, i sondaggi elettorali, cosa dice Kamala Harris, cosa dice Trump, cosa succede, è un po' come si muove il voto, ecco. Però ecco, tu che vivi lì a New York ormai da oltre un decennio, qual è il clima che si respira in una realtà comunque particolare, ecco, più progressista che altre zone degli Stati Uniti come quella di New York? Assolutamente, hai detto bene. Guarda, c'è grande preoccupazione, però New York, lo Stato, come la California, lo Stato alla fine non fanno testo per quanto riguarda poi la decisione finale, non passa da qua, no? Sì. L'elezione del presidente, ma da un'altra America, perché soprattutto New York è una città mondo, è una città stato molto aperta, progressista, democratica, il melting pot esiste ancora, no? Io ti porto l'opinione dell'uomo della strada, no? Non ti faccio un'analisi politica, ma devo dirti che tutto quelli che conosco, l'ambiente che frequento, gli artisti, i musicisti, tutti sono preoccupati di un arrivo di Trump, sono tutti insomma dalla parte di Kamala Harris, speriamo veramente che si vada in quella direzione là, perché ci stiamo giocando le sorti del mondo intero. New York, ti dico, sono venuto qua con l'idea del sogno americano. e lo sto vivendo ancora. Ho festeggiato 11 anni in questa città a giugno e devo dire che non ho mai cambiato la mia opinione. È una città estremamente aperta, dove nonostante insomma i prezzi sono saliti alle stelle, non è facile viverci, però c'è ancora una grande libertà di pensiero, tante razze, culture, lingue diverse convivono in una maniera, non dico armonica, ma con grande rispetto e tolleranza. È ancora così, io credo ancora nel sogno americano, devo dire però che New York è molto diversa da tutto il resto d'America. Negli ultimi anni ho iniziato a viaggiare esatto. tanto, sono veramente felice di avere questa opportunità di vedere un'altra America, ma non vivrei mai in un altro posto che non sia New York. Certo. Io ho avuto questo innamoramento, è stato il mio sogno di una vita venire qua, e ho sempre sognato New York più che l'America. Poi, ti ripeto, sto viaggiando, è tutto molto interessante, però la mentalità e soprattutto tante volte non capivo Trump, il seguito, eccetera. Basta poco, basta andare dall'altra parte dell'Hudson River, andare nel New Jersey, andare in un altro stato e vedi che c'è un'altra America con, come dire, un altro pensiero. Io ho seguito un po', ho guardato il dibattito, eccetera. Insomma, senza, ti ripeto, non sono un esperto di politica, però basta guardare il personaggio con un po' di buon senso, è una persona fuori di testa, pericolosa. Io non riesco a capire veramente come tante persone anche intelligenti gli danno insomma supporto. Questo, e sto parlando qua di New York, però sono veramente rare, ma perché forse io vivo in una bolla che mi sono creato, certo, sì. di artisti, musicisti e persone che hanno un'idea insomma della democrazia, del rispetto e del sogno americano molto diversa da quella di Trump, ecco. Sì. Ascolta, a proposito di questo, Ricky, insomma, si parla molto della polarizzazione, no? Che è molto presente, anche delle due Americhe che anche tu menzionavi, no? Quella, diciamo, delle coste, che sia la East o la West Coast, che sia New York o la California, progressiste, aperte, multiculturali, invece quella che è l'America profonda, che però poi in numero di voti e soprattutto per come funziona il sistema elettorale americano ha un peso enorme. Esatto. Insomma, ecco, esatto. tu hai viaggiato e ce lo dicevi, no? Penso a Memphis, penso proprio a quell'America profonda. Ecco, insomma, una questione è anche, ma queste due Americhe riusciranno ancora a parlare al di là di avere opinioni diverse? Perché insomma, se pensiamo anche a un film che ha fatto molto discutere, Civil War, no? Su una possibile futura guerra civile distopica tra due Americhe diverse. Ecco, insomma, qual è la tua percezione anche di questo? Si possono ricomporre queste differenze ormai dal 2016 in avanti, dopo la vittoria di Trump? C'è una differenza, un fosso così grande che è quasi impossibile colmarlo di nuovo? Guarda, no, mi auguro che questo fosso venga colmato, ma non ti nascondo la grande preoccupazione, perché questa divisione di due Americhe sicuramente c'è. Penso che ha dato una botta in negativo, ma in tutto il mondo, la pandemia sicuramente ancora adesso stiamo pagando, non solo dal punto di vista economico, ma anche proprio dello shock, no? Tanti come me insomma sono stati colpiti direttamente, no? Con un lutto in famiglia, eccetera, però vedo ancora gli strascici di quel momento storico drammatico, no? Ancora non l'abbiamo superato, assorbito, e quello sicuramente ha tirato fuori la paranoia, ha tirato fuori anche la cattiveria della gente, no? Parlo proprio robe molto semplici, no? Di vita quotidiana. Questo sicuramente lo vedo, e anche proprio la paura di una nuova pandemia. Vedo tante persone ancora che indossano le mascherine anche all'esterno, sì, quindi sì. Sicuramente ha peggiorato la situazione, no? Il dopo pandemia ha buttato un po' tutti nel caos, sì. Ha diviso ancora di più la gente. Io mi auguro tantissimo che si vada verso a qualcosa di positivo e però non, ti ripeto, non ti nascondo la mia preoccupazione. Purtroppo diventerò cittadino tra 2 anni, se no potevo competere sicuramente anche quest'anno con Trump. Ma infatti qua ero al comune questa mattina a parlare con il sindaco, tra 2 anni insomma mi candiderò sicuramente. Ascolta, una cosa al volo prima di chiudere, no, si è detto, si è letto da alcune parti, insomma, Kamala Harris, ok, Biden era molto anziano, è stato un cambio positivo, i sondaggi stanno migliorando per i democratici, eccetera, però c'è chi dice, insomma, Kamala Harris in fin di conti è una dirigente molto moderata e c'è sempre il rischio che c'è una parte della sinistra, pensiamo anche al movimento Black Lives Matter, eccetera, che magari alla fine dice, vabbè, insomma, io non mi mobilito, non vado a votare per una che è così centrista, ecco, passami il termine. E tu negli ambienti che frequenti, insomma, tra gli artisti, tra la gente di New York, ci sono settori che appunto rischiano di rimanere a casa e non andare a votare il 5 novembre, oppure invece alla fine tutti, diciamo, anche chi magari non è convinto si tura il naso perché insomma conosce bene il pericolo rappresentato da Trump? Assolutamente la seconda. Io penso che chi ragiona un po' e ha visto il personaggio, ma anche solo ha seguito il dibattito, è una persona fuori di testa. Poi è talmente assurdo, no, che alcune cose che ha detto diventano delle cose quasi divertenti, no? Quasi da, cioè, da riderci sopra, ma c'è poco da riderci sopra, insomma. Ha già fatto vedere di che pasta è fatto, insomma. E io mi auguro che, anche se tanti non sono molto convinti, sono contento di questo cambio di Kamala al posto di Biden. Perché insomma è una persona anziana che si vedeva che non era più in grado di gestire, no? Un lavoro così importante, il lavoro più importante al mondo, no? Si decidono le sorti dell'intero pianeta e quindi non so, Steven, spero che questo collegamento porti bene. Incrociamo le dita anche noi. Il primo che mi ha chiesto un'opinione politica, di solito ovviamente ho le mie idee così, ma non ne parlo molto spesso, è più facile per me parlare di Joe Strummer. Ascolta, ascolta, no. Proprio per questo e per salutarci, abbiamo 30 secondi per il prossimo brano. Hai deciso di farci ascoltare Jack White, That's How I'm Feeling, spiegaci il perché. Perché lo vorrei lui come presidente degli Stati Uniti. È uno dei più grandi rocker viventi ed è uno che si mette sempre in gioco. Questo No Name è uno dei suoi dischi migliori addirittura. È uscito da poco, solo in vinile, perché ormai questo è un po' l'andazzo, si trova anche sulle varie piattaforme di streaming, però è uno grandissimo ed è in forma strepitosa, l'ha dimostrato con questo No Name, That's How I'm Feeling, il titolo della canzone che ho scelto. Grazie di cuore davvero per avermi ospitato e spero che tra qualche mese ci risentiamo con buone notizie da New York. Ti mando un grosso abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori e ci salutiamo con il prossimo presidente degli Stati Uniti, Jack White. Ciao. Dai, Ricky, un abbraccio, un abbraccio a te, a prestissimo. Ciao Ricky, ciao ciao. I'm pezzo con una gran bella carica, questo di Jack White che ci propone Ricky Russo, che è stato con noi in questa prima parte di Zibaldone. Prima di volare in New Mexico, Banzo, prima parlavamo insomma di Stevie Wonder, c'è una ragione tra l'altro perché abbiamo mandato in onda questo brano, non solo perché è bello. Sì, quella è una ragione molto facile, ma c'è proprio un nucleo tematico più collegato alla puntata, cioè il fatto che Stevie Wonder ha suonato questo brano alla convention democratica che, nazionale, che si è svolta lo scorso agosto nel corso della terza giornata, e il brano è stato preceduto da un discorso nel quale diceva che praticamente gli americani si trovano sospesi fra il dolore di ieri e le promesse di domani, quindi un endorsement chiarissimo a Kamala Harris. Vabbè, era la convention democratica, non ci aspettavamo di meno, però è interessante perché in questo caso abbiamo un endorsement appunto diretto, mentre qui apriamo col brano successivo un altro capitolo, quello degli artisti che hanno diffidato o direttamente denunciato Donald Trump dall'usare le loro canzoni. E ce n'è parecchie. C'è una lista così. Addirittura Steven pensa, c'è una pagina Wikipedia che li elenca, oltre a vari articoli. Ne abbiamo scelta una particolarmente bella, a nostro parere, significativa per la storia che c'è dietro, cioè Hold On, I'm Coming di Sam & Dave, 1966, grande classico del Soul, brano usato da Trump, pensate, a una convention della National Rifle Association nel maggio 2022, quindi la lobby delle armi, musicisti black sono molto perplesso, e praticamente la famiglia di Isaac Hayes si è espressa molto negativamente. Perché Isaac Hayes? Perché è uno dei due autori del brano, Isaac Hayes è scomparso già nel 2008, e anche l'altro autore, David Porter, che è ancora vivente, ovviamente non ha dato il suo beneplacito. Ma Trump ha perseverato, perché nel 2024, a un meeting in Montana, hanno rimesso la canzone. Cioè, è una storia... Si vede che a Trump, o a qualcuno del suo entourage, piace molto, e non possiamo dire che abbiano brutti gusti musicali in questo caso. E niente, quindi, i detentori dei diritti, probabilmente la famiglia di Hayes, sono passati alle vie legali denunciando per violazione del copyright Trump, Comitato Nazionale Repubblicano e l'NRA. Ma ci sono anche altri esempi che non abbiamo il tempo di coprire, per esempio John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival, perché anche Fortunate Son per esempio era stata usata in un contesto simile. Ma come ho detto, è una lista molto lunga, andate a spulciarla. Così vi ascoltate anche della gran bella musica. Andiamo con Sam & Dave, Hold On, I'm Coming. Oh! collegamento telefonico con noi direttamente dagli Stati Uniti e più precisamente da Albuquerque nel Nuovo Messico abbiamo Alessio Piras, docente di spagnolo all'Università of New Mexico, che tra l'altro è stato spesso nostro ospite negli anni scorsi di Zibaldone, mai però dagli Stati Uniti, dove ha cominciato una nuova tappa della sua vita professionale. Alessio, innanzitutto bentornato a Zibaldone, un piacere averti con noi per questa prima puntata della stagione del nostro programma radiofonico. Ciao Steven, ciao a tutti, un piacere essere qua di nuovo dopo non so quanto tempo, 3, 4, 5 anni, non lo so, però è veramente un piacere. E nella puntata di quest'oggi di Zibaldone parliamo proprio della tua, il tuo nuovo paese di accoglienza, gli Stati Uniti appunto, no? A partire da, insomma, il clima che si respira negli States in vista delle elezioni del 5 novembre. Partiamo proprio da qui, Alessio, tu ti trovi in una realtà che forse è meno conosciuta di altre, non è New York, non è Los Angeles, non è Chicago, no? Il Nuovo Messico, innanzitutto un po' in questa campagna elettorale molto tesa, segnata da i due attentati a Trump, da l'abbandono di Biden, da una polarizzazione politica che vabbè non è una cosa solo degli ultimi mesi e ovviamente anche le prospettive di vittoria di Trump. Ecco, qual è un po' il clima sociale che si respira anche al Albuquerque, visto che tu vivi proprio lì da tempo? Allora, sì, io sono qui da 3 anni ormai, in New Mexico, siamo nell'area del Southwest degli Stati Uniti, quindi a sud-ovest. New Mexico è tra il Texas e l'Arizona, per intenderci, ed è uno degli stati di frontiera degli Stati Uniti, della frontiera sud, che è una delle protagoniste della campagna elettorale per via del tema dell'immigrazione, che sappiamo che è un tema caldissimo, no? Penso che tutti abbiano ascoltato il fatto che Trump durante il dibattito presidenziale ha detto che ci sono immigrati in Ohio che stanno mangiando, certo, gli animali domestici delle persone. Cioè, vabbè, sorvoliamo, quindi nel senso è tema caldo. E il New Mexico è uno stato, innanzitutto è uno stato blu, quindi democratico, da ormai molto tempo. La città di Albuquerque anche è governata dal Partito Democratico ormai da diverso tempo, ed è uno stato con un'altissima concentrazione di immigrati provenienti dal Messico, e quindi la campagna elettorale qui si vive con, diciamo, quella tensione che mette soprattutto il Partito Repubblicano sulla questione migratoria, perché comunque sentiamo tutti che per esempio J.D. Vance, il candidato vicepresidente, nelle ultime uscite ha detto che lui vuole, una volta che sarà vicepresidente, vuole deportare non so quanti milioni di haitiani, per esempio, che secondo lui sono qui irregolarmente anche se hanno un normale permesso d'asilo. E quindi, nel senso, questo chiaramente crea delle fortissime tensioni, perché la questione migratoria, la questione della legalità dello status migratorio, è una questione che non è così automatica come in Europa, per esempio. Cioè, qui i permessi di soggiorno funzionano in maniera un po' diversa, no? Perciò ci sono veramente molte persone che sono, per esempio, in una situazione di limbo, no? Che magari hanno la green card che è scaduta, stanno magari aspettando la nuova green card, e quindi hanno paura che questo abbia delle conseguenze. Cioè, non si sa bene cosa intendono quando parlano di queste esportazioni di massa, eccetera, eccetera, che ovviamente non riguardano, per esempio, persone come me, no? Che veniamo dall'Europa, eccetera, eccetera, ma ovviamente riguardano persone, cittadine di paesi latinoamericani come Haiti, come il Messico, come il Guatemala, il Nicaragua, perché poi si parla molto della frontiera tra Stati Uniti e Messico, ma non è che tutti quelli che attraversano quella frontiera sono messicani, anzi, sono una minima parte messicani, la maggior parte vengono da altri stati del Centro America e anche da Haiti, che adesso è sulle cronache di tutti i giornali, perché la situazione economica e sociale di Haiti è drammatica, e quindi moltissimi haitiani sono venuti qui negli Stati Uniti facendo anche un percorso strano, invece di andare verso la Florida, passando per il Messico e poi risalendo per la frontiera, appunto, che ci riguarda qui a sud. Quindi diciamo. Sì, dimmi. No, è molto interessante quello che ci stai raccontando, ma parlando anche dell'immigrazione, no? E tenendo conto anche quello che è successo, menzionavamo, no? gli attentati a Trump, ovviamente, che hanno polarizzato probabilmente ancora di più la società statunitense. Ecco, tu la polarizzazione, diciamo, quella che si chiama sociologicamente così, la vedi nella tua quotidianità? La vedi, penso, anche per esempio al tuo lavoro in università, il contatto con gli studenti? Qual è un po' il clima che si respira da questo punto di vista, al di là che sia uno stato, come tu ci dicevi, il Nuovo Messico, storicamente democratico? Il mondo accademico è un po' una bolla, no? Quella che in spagnolo chiamiamo la burbuja, no? Perché praticamente l'università è gran parte, diciamo, sostiene sempre posizioni più liberal, ora in maniera più magari moderata o radicale, però diciamo che dentro l'ambiente accademico si percepisce un pochino meno questa tensione. Quello che si vede, sì, è che praticamente, non so se ti ricordi quando c'era Berlusconi in Italia, che Berlusconi, certo, vinceva le elezioni, però nessuno lo votava, no? Certo. Che qui invece c'è l'esibizione del proprio voto, no? Cioè, gli americani non hanno paura a esibire quello che è il loro credo politico, no? E quindi fuori dall'ambiente accademico sì che vedi, diciamo, puoi vedere alcune situazioni, ma almeno qui nel New Mexico solo a livello di esibizionismo, non so, passi davanti a una casa ed è, diciamo, tappezzata di questi cartelli di campagna pro Trump o pro Kamala Harris. Però forse New Mexico è a suo modo, diciamo, uno stato un po' peculiare, quindi una tensione che si percepisce un po' meno. Dove si percepisce questa tensione è nei mass media, nei dibattiti televisivi o in alcune dichiarazioni. Per esempio, la settimana scorsa Kamala Harris, ospite da Oprah Winfrey, ha detto che lei ha una pistola e che se qualcuno le entra in casa gli spara. Cioè, questa è una dichiarazione che se in Italia la facesse un leghista salteremmo tutti sulla sedia, invece qui la sta facendo la candidata presidente del partito più, diciamo, moderato, no? Dello schieramento. Quindi, diciamo, lì percepisci che c'è un po' di tensione. E per quanto riguarda invece, no, una delle notizie che ha segnato anche fino ad ora questa campagna elettorale, che è il cosiddetto Project 2025, il progetto 2025 della Heritage Foundation, no? Che è, insomma, sì, è stato un progetto che nella pratica vorrebbe dire quasi l'annullamento del sistema democratico statunitense, no? Non è solo un progetto, sì, conservatore propriamente, sì, detto. Ecco, al di là poi, sì, che Trump, insomma, si sia, no, sì, abbia preso fino a un certo punto le distanze da questo, non così Vance e così via. Ecco, tu come la vedi e soprattutto che impressioni ti sta facendo? Perché stiamo parlando non solo che vincano, no, quello che un tempo si sarebbe chiamato il centrodestra o il centrosinistra, ma che nel caso di un ritorno di Trump alla Casa Bianca ci sia davvero una svolta autoritaria. È così anche la tua percezione, quello che tu magari, insomma, percepisci da chi ti sta vicino, dalle persone che insomma, con cui lavori, che frequenti ad Albuquerque, o invece nel caso della realtà che tu conosci meglio, ecco, non c'è questa percezione di questo timore per una svolta autoritaria davvero così radicale nel caso di una vittoria di Trump? Il timore c'è, si percepisce nonostante Trump abbia preso le distanze, diciamo, da questo progetto. Alcuni, tu sai che Trump ha ricevuto l'endorsement di molti, diciamo, pezzi grossi del Partito Repubblicano, tra cui Dick Cheney e sua figlia. Kamala Harris, non Trump. Sì, scusami. Hai ragione. Kamala Harris, il Partito Democratico, ha ricevuto l'endorsement di molti pezzi grossi del Partito Repubblicano, sì, che hanno fatto anche la storia, certo, del Partito Repubblicano, come Dick Cheney, che non è certo stato un vicepresidente, diciamo, durante l'era Bush Junior. Sua figlia, che comunque con Trump aveva iniziato una battaglia legale e politica che poi ha perso perché è stata, diciamo, estromessa dal Partito Repubblicano, però anche il figlio di McCain, persone che hanno lavorato con Trump, e tutte queste persone qui, che ex repubblicani, che ora stanno hanno dichiarato la loro intenzione di voto nei confronti di Kamala Harris, tutti mettono l'accento sul fatto che un secondo mandato di Trump porrebbe fine al sistema democratico americano. Il timore c'è perché sostanzialmente in questo momento anche la Corte Suprema è imbottita di giudici trumpisti, quindi Trump ha avuto la fortuna nei suoi 4 anni di presidenza di avere l'opportunità di nominare diversi giudici della Corte Suprema, il che ha fatto, gli ha permesso, diciamo, di occupare anche quella istituzione con persone di fiducia. Perciò questo timore si sente tangibile. Ora, quanto sia un timore reale, questo sinceramente non te lo so dire. Però sì che esiste. E ascolta, esiste questo timore. Alessio, prima di salutarci, dal punto di vista anche dell'attivismo, diciamo, democratico, progressista, di sinistra, ecco, ad Albuquerque, il Nuovo Messico, realtà che conosci bene, si stanno facendo, no, delle cose concrete in vista delle elezioni, c'è un attivismo molto presente, in realtà, come tu dicevi, in realtà molto si gioca solo sui mass media o le reti sociali, e in realtà poi nella quotidianità si vede poco, al di là di qualche cartello attaccato sulle case di chi opta per Trump o per Harris. Ma allora, questo è uno stato sicuro, non è uno di quegli swing state come può essere la Pennsylvania, la Georgia o Nevada, no? Quindi questo è uno stato che probabilmente voterà democratico, e perciò, diciamo, l'attivismo da campagna elettorale è un attivismo normale, no? Quindi, per esempio, ci sono i gazebi, ci sono le persone che fanno campagna, che cercano di capire le intenzioni di voto, ti chiedono se sei iscritto perché sai che qui ci si iscrive, no? Può essere o un elettore indipendente oppure un elettore dichiarato per uno dei due partiti, no? Però è tutto, diciamo, nella normalità, ma credo che sia dovuto al fatto che questo non è uno stato swing, non è uno di quegli stati che, diciamo, bascula tra una parte e l'altra. Già diverso credo che potrebbe essere in stati come la Georgia o la Pennsylvania, che dove invece si giocheranno le elezioni. Dove si giocheranno le elezioni, perché poi alla fine si giocheranno in 3-4 stati, cioè gli altri stati bene o male seguiranno il loro corso normale, diciamo, storico. Sì. Quindi la Florida, che è uno stato repubblicano, continuerà a essere uno stato repubblicano, la e California. New York. La California, che è storicamente uno stato democratico, continueranno così, è uguale a New Mexico. Quindi. Ascolta, proprio per salutarci, domanda da milioni di dollari, tu cosa ti aspetti innanzitutto, ma soprattutto, visto tutto quello che è successo in questi ultimi mesi, che cosa ci possiamo aspettare nel mese più o meno restante che abbiamo fino al voto del 5 novembre? Tu credi che alla fine, insomma, andrà un po' tutto, no, sui binari tradizionali, insomma, si voterà al di là della polarizzazione, o hai la percezione che possono esserci delle sorprese anche in negativo, degli imprevisti davvero anche gravi, tenendo conto che, non lo dimentichiamo, il 6 gennaio del 2021 ci fu l'assalto a Capitol Hill, che fu, insomma, secondo molte interpretazioni, un vero e proprio assalto, no, alla democrazia, sì, e un tentativo di colpo di Stato. Ecco, sì, insomma, veniamo da quei momenti e la tensione, sì, è altissima. Ecco, sì. Tu cosa prevedi, se ti azzardi a fare qualche previsione? Io credo che l'elezione in sé, cioè chi vincerà, è tutto in bilico, è tutto in gioco, può succedere di tutto dal punto di vista della vittoria finale. Credo che quest'ultimo mese e mezzo di campagna elettorale, no, mese, sarà, io credo che sarà abbastanza tranquillo, nel senso che non credo succederanno cose incredibili, però chiaramente non ho la palla di cristallo per poter prevedere il futuro, quindi la situazione ogni settimana ne esce una, però io credo che bene o male la sorpresa grossa è stata quest'estate l'abbandono di Biden, sì, la speranza che ha di nuovo risvegliato Kamala Harris, il recupero nei sondaggi, eccetera eccetera. Queste sono tutte cose che erano totalmente impreviste a gennaio, febbraio di quest'anno, sì, sì, e che sono successe. E quello che può succedere è il dopo, cioè, nel senso che io vedo che chiunque vinca si può creare una situazione, diciamo, abbastanza di tensione, perché se vince Trump, abbiamo già detto quali sono le paure, eccetera, eccetera, di un secondo mandato di Trump. Se vince Kamala Harris, bisogna vedere in che modo e in che termini Trump accetta la sconfitta, perché non ha accettato la sconfitta da parte di Joe Biden, un uomo bianco dell'America degli anni 70, anglosassone, eccetera, eccetera. Sì, io non so quanto Trump sia in grado di accettare la sconfitta da parte di una donna di colore, perché ricordiamo che la questione è che alla fine Kamala Harris sia non solo donna, ma anche di colore, aggrava ulteriormente quello che potrebbe essere l'orgoglio ferito di Trump. Quindi quello è tutto da vedere. È come reagirà. Tutto da vedere, lo scopriremo nelle prossime settimane, magari ne torneremo anche a parlare. Alessio, grazie di essere stato con noi. Alessio Piras, docente di spagnolo all'Università del New Mexico Albuquerque, grazie davvero, un piacere ritrovarti qui a Zibaldone. Grazie a te, un piacere tutto mio. In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Eh beh, diciamo, questa canzone è circolata parecchio online nelle ultime settimane. Banzo, insomma, a partire da una dichiarazione, no? Ne parlavamo anche con Alessio Piras, di Trump nel dibattito con Kamala Harris, no? Un'altra fake news, una teoria della cospirazione come tante altre, di cui si prende gioco The Kiffness. Sì, poi insomma sugli immigrati c'è sempre questa wild card di dire che mangiano gli animali domestici, non è una cosa affatto nuova. I comunisti mangiavano i bambini, dai, è migliorata la cosa. Quelli sono i comunisti, però. Vabbè, comunque, The Kiffness, che è il produttore sudafricano David Scott, che in realtà poi è un gruppo The Kiffness, ma spesso è lui, diciamo, uno pseudonimo che lo identifica, certo. Ed è noto per varie canzoni meme, la più celebre forse è la mitica I Go Meow, con le vocals di Kala the Cat, cioè erano registrate, sembrava dicesse parole vere e proprie, se non la conoscete andate a cercarla. Kala the Cat sembra che sia scomparso purtroppo qualche mese fa, e insomma ci piacciono i gattini, quindi è una notizia triste, ma Steven, prego, vai avanti. Sì, andiamo ad ascoltarci Roy Ayers, It Ain't Your Sign, It's Your Mind, era il 1976, perché? Ve lo diciamo tra poco. We'll be right back. io me ne starei ore a ascoltare Roy Ayers, ma chiudiamo praticamente con questa canzone, questa prima puntata della stagione di Zibaldone Voci dall'America. Banzo, perché? Perché anche in questo caso c'è un riferimento alla campagna elettorale in corso negli States. Sì, perché è una canzone, o meglio, è un disco che adora Kamala Harris, l'ha dichiarato pubblicamente, ha definito l'album da cui è tratto questo brano, Everybody Loves the Sunshine, uno dei suoi album preferiti, e comunque ne ha dato anche una dimostrazione pubblica, perché c'è questo video che è circolato recentemente, nel quale Harris esce da un negozio specializzato in musica soul R&B di Washington, HR Records, in occasione di una giornata di supporto alla piccola imprenditoria, un video del 2023, e aveva comprato appunto questo disco, che se lo adora così tanto forse ce l'aveva già, quello è un gesto dimostrativo, ma lì capiamo, insomma, i dischi che si amano si possono avere in copie multiple, e aveva comprato anche un album di Charles Mingus e uno di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Amica male. E questo video è circolato, come avevo detto, moltissimo. Diciamo che a questi livelli qui, Steven, è tutto marketing in un certo senso. Ogni mossa, ogni parola, ogni respiro che fa un politico diventa marketing. Però io mi complimento con Harris per i suoi gusti musicali. Ecco. Anche io sono stra d'accordo. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, però ovviamente c'è sempre una canzone per salutarci. Il cosiddetto ultimo trago, canzoni italiane interpretate in giro per il mondo, soprattutto in lingua spagnola, ma quest'anno anche in altre lingue, le scoprirete nei prossimi mesi. Banzo, oggi andiamo ad ascoltarci uno che si chiama Colonel Pipo. Sì, esatto, e appunto in futuro vi presenteremo anche canzoni non in spagnolo, ma oggi ci appelliamo alla tradizione. Colonel Pipo in realtà ha una carriera brevissima, perché ha pubblicato solo un EP di 4 brani nel 1967, quando aveva 20 anni. Suo nome vero è José Manuel Belenguer Faubel, era valenciano, è scomparso nel gennaio 2019, e appunto in questo suo unico EP, il brano di apertura è Basta Ya, che è una cover di La Rivoluzione di Gianni Pettenati, brano di Mogol Sofici, portato a Sanremo nel 67, anche per Jim Pitney, perché ricordate c'erano gli accoppiamenti in quel periodo, e in realtà c'è questa gag che mi piace sottolineare: nella copertina del vinile, che potete trovare su internet facilmente, il brano italiano è riportato come La Rivoluzione con due Z, complimenti per lo spelling. E poi è comunque curioso perché sì, il brano, al di là del titolo roboante, sì, è molto buonista, l'insegna del volemos e bene, però nella versione di Colonel Pipo ha questa curiosa intro quasi rumoristica che sentirete in pochi secondi, ma è già abbastanza di rottura rispetto all'originale. Chiudiamo così la nostra prima puntata, vi lasciamo questo brano, curiosi di sapere se vi piacerà. Ce lo andiamo a sentire, Banzo, alla prossima, buon venerdì sera. Come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17.57 diceva tutti i venerdì: Ragazzi, occhio a Springfield, perché sì, questi gatti, insomma, ce ne sono troppi, dice Trump. Dai, ciao Banzo, basta ya, Colonel Pipo. ¿Y por qué será? Mira, algo ha sucedido. Ya se han convencido que nos conviene paz y se ponen a gritar: ¡Basta ya de revoluciones, de guerras y cañones! ¡Y venga la paz! ¡Basta ya de revoluciones! No habrá más rencores y el amor vencerá. Cuestión de pocos años, tal vez de pocas horas, el aliviar a nuestro mundo, un mundo donde todos seamos como hermanos, vencidos y vencedores, al fin se abrazarán. de pocos años, tal vez de pocas horas,